Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Ra della Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non Parenzo. È uno scherzo questo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Le persone beghine, bigotte, non ti danno tregua? I cristiani stanno diventando insopportabili? I testimoni di Geova ti suonano tutte le domeniche mattina? Dai anche tu l'8 per 1000 alla Zanzara. La Zanzara, la più grande radio di scristianizzazione che ci sia in Italia. Più Cruciani, meno cristiani. Vabbè, adesso non esageriamo, ragazzi, non esageriamo. Queste sono idee degli ascoltatori. Però l'8 per 1000, che non c'è più, il 5 per 1000, quello che è, invece di darlo alla Chiesa o ai partiti politici, dovremmo mettere, caro Parenzo, un conto corrente, no? Cioè datelo, sì, alla può Zanzara. Essere un'idea questa. Datelo, certo, alla Zanzara, certo, assolutamente. Certo. Cioè, potrebbe essere un'ottima idea. Magari sul mio conto corrente, vi do l'IBAN direttamente. Sul no, ma mio. Che c'entra il tuo conto corrente adesso? Non c'entra niente il conto. Ah, tu dici proprio destinarlo? Sì, no, conto corrente della Zanzara, che poi gestiamo io e te, naturalmente. Però, ah, ecco, sì. Sì, certo. Quello gestiamo io e te, non è che lasciamo gestire al Sole 24 Ore. Gestiamo io e te. 5 per 1000 destinato alla Zanzara. Buona idea questa qua, non c'è male, Per progetti sociali, magari, no? Per accogliere qualche immigrato, bravo. Cioè, sì. Bravissimo, oh, bravo, sei cambiato, mi piace. Guarda, ho visto in realtà la foto del carabiniere ferito, cioè ho visto la foto, sai quello che è successo, ne abbiamo parlato anche ieri a Rosario. Come no, ne abbiamo parlato ieri a Rosario. Il carabiniere ferito in testa, se è quella la foto giusta che mi hanno mandato, c'è una bella foto con questo carabiniere con la testa spaccata, quello che ha sparato. Quindi? No, ma io dico questo, dico solo questo. Che vuol dire? Non è male l'idea di radere al suolo la tendopoli di Rosarno, secondo me, Radere al suolo, cioè queste tendopoli, queste situazioni. No, ma non mi interessa, cioè non devono esistere queste situazioni di territori non controllati dallo Stato, non devono esistere. Ma in realtà sono controllati, sono controllati. È il primo incidente, grazie a Dio, che capita negli ultimi anni. No, non c'è controllo, non c'è controllo. No, non c'è controllo, niente, basta. Oliviero Toscani, notizia di ieri che abbiamo già dato, assolto per aver detto alla Zanzara queste parole. Oggi molti giornali in Veneto, molti siti di giornali veneti e non solo, pubblicano questa notizia con grande evidenza, anche con una certa critica, no? Cioè, nel senso, Toscani può permettersi di dirci che siamo degli ubriaconi, che è nel nostro DNA bere vino e ubriacarci. Senti, quando parla il sindaco di Padova, guarda, fonici, quel dialetto meraviglioso, che è il dialetto padovano, anch'io ho difficoltà effettivamente. Da ubriachi, un accento da alcolizzati. No, dai, su, no, non si può dire. Cioè, tu dici l'accento veneto è da ubriachi. Sì, da ombretta tutto il tempo, l'ombra, bevono le ombre. No, cioè, tu dici è un popolo di ubriaconi alla fine. Alcolizzati, atavicamente, non loro personalmente, ma nonni, padri, madri. Cronici, alcolizzati cronici, dai. Guarda Parenzo, non è un po'... Ma scusa, ma tu veramente, Oliviero, vuoi farti emanare una fatua dal Veneto? Cioè, vuoi che ti impediscono di entrare in Veneto? Ce ne dici di tutti i colori sui veneti, cioè. Ma no, poveretti. Beh, no, poveretti, insomma, dai. Mica colpa loro se non ce l'hanno. La Cassazione dà ragione a Toscani, non è reato dire veneti ubriaconi. Adesso, ragazzi, va bene tutto, ma intasare i tribunali, perché il nostro amico Toscani ha espresso la sua idea sui veneti, sul vino, eccetera, eccetera, mi pare francamente eccessivo. Se qualcuno si ritiene offeso, esatto, purtroppo respinto con perdite. Allora, cari amici complottisti su Buonanno, cari amici complottisti, mettetevi l'anima in pace. Ancora? Mettetevi l'anima in pace, perché voglio dirvi una cosa solamente. È spuntata l'ipotesi della distrazione, purtroppo è una cosa su cui bisogna riflettere, per questo io utilizzo pochissimo la macchina, perché odio le autovetture, guido sempre meno, ho una paura tremenda. E forse l'amico Buonanno ha semplicemente perso il controllo dell'auto perché si era chinato a raccogliere un cellulare. Quante volte è capitato? Tantissime volte. Purtroppo gli è caduto il cellulare. Pare che sia questa una delle ipotesi, al di là della questione della cintura, pare che non se la mettesse molto spesso, eccetera eccetera. Comunque, poi è sbandato, naturalmente ha sbandato l'auto e ha tamponato l'altra auto in sosta. Ma al di là di questo, cari amici complottisti che dite una marea di cazzate, mettetevi l'anima in pace. Ci sono questioni molto semplici, purtroppo, drammaticamente semplici, che hanno portato all'incidente mortale. C'è uno strepitoso De Luca, governatore della Campania, nostro leader massimo. Nostro leader, com'è che lo dico io? Governatore del mondo, sì, scusa. Governatore del mondo. Governatore della Campania, diciamo pro forma, formalmente. Per noi, governatore del mondo. Il quale dice delle cose incredibili. Per esempio, sulla Appendino, senti, la candidata 5 Stelle a Torino. Se dovessi scegliere con chi andare a cena, io andrei a cena con l'Appendino, diciamo la verità. Insomma, fra Fassino e Appendino. Anche perché l'Appendino, ho visto che si è messa anche la lacca, ha aggiustato i capelli. Ecco, prima aveva i capelli un po' a spazzola, tipo pennello cinghiale. Capelli a spazzola tipo pennello cinghiale. Senti, su quelli di Bologna invece, Bergonzoni, Merola. Esteticamente uno si trova la Bergonzoni e Merola. Bergonzoni piena di vita, diciamo. Metta su un piatto delle tagliatelle al ragù e è un brodino vegetale questo. Però scusi, in questo caso dice che la Bergonzoni è come le tagliatelle al ragù, no? Cioè, no, dice che è una brava massaia emiliana, questo intende. Non lo so, lo sai? No, quello è brodo vegetale. No, no, non credo. Ah, sì, perché è popputa, dice. Non lo so. No, sì. Però la preferisce, sembra preferirla. Le tagliatelle al ragù. Però sembra preferirla rispetto al brodino vegetale. Gli ha detto che è meglio che faccia la massaia, però lì a casa. No, non lo so, non credo. No, ok. Beh, insomma, se uno deve mettere esteticamente, scusami, Merola con una Bergonzoni, che cazzo scegli? La signora Bergonzoni, dai, dal punto di vista di De Luca. Ma dal punto di vista di De Luca, sì, no? Cioè, sceglie la Bergonzoni. Oggettivamente è così. Comunque, senti su Di Maio. Non mi sembrava questo il tema. Senti su Di Maio, senti. Per dirle quanto questo paese rimanga ancora un circo equestre per tanti aspetti. Di Maio, che si candida premier. Cioè, questo è un ragazzo di 29 anni che non ha mai lavorato nella sua vita, non ha mai fatto niente, tranne un po' il webmaster, come dire. Ora provate a immaginare uno che ha 29 anni si presenta sempre con i capelli a spazzola e la giacchettina abbottonata a due bottoni. Questo è qualche turba infantile deve averla avuta. È sempre il numero uno assoluto. È da qualche tempo che non esternava in questo modo, il governatore del mondo. Sì. Qualche turba mentale deve aver avuto. Ma un dov'è pezzo. Che si trova questo? Cioè, ha un canale tutto trova? Suo. È all'Ira TV, è sempre all'Ira TV, va là e si sfoga liberamente. Cioè, è una specie di sfogatoio de Lucchiano. Senti, sì, anche bisognerebbe su... trasmetterlo tutto. Sì, ma tutto, infatti, tutto. Che stava facendo esattamente questo. No, ma tutto. Dobbiamo andare a casa e trasmettere solo De Luca. Capito? Senti solo questa cosa qua su Gomorra. Senti. Sì. Un elemento che anziché diffondere cultura vera dei valori e della solidarietà, rischia di diffondere sottocultura e immagini deteriori, finte. Questo Saviano è un personaggetto. Crucia, hai rotto il cazzo con la zanzara. Noi vogliamo sentire la pubblicità. La pubblicità, e il traffico. La Zanzara. Ormai non ho più relazioni di sorta, solo solitudine e zanzara. Ragazzi, due piccole notiziole per farvi incazzare. Una riguarda Camera e Senato, una incredibile missione, sempre se sono vere queste cifre e le notizie che danno, ma prendiamole per bene. Grasso e Boldrini organizzano una gita, viene chiamata così dai giornali, una missione in Marocco, interessantissima missione in Marocco. E partono in 33, un summit a Tangeri con tutto lo staff dietro, 33 persone, dico 33 per una cosa credo fondamentale nella storia del mondo e dell'Italia, 33 persone in sostanzialmente in gita turistica a Tangeri, Marocco. Beh, gita turistica adesso. Gita turistica, diciamo la verità, gita turistica, dai, cioè, paghiamo noi. Ma insomma, di che stiamo magari parlando? Dai. Sono un po' troppi, però non è che non si fanno più le missioni all'estero. No, comunque, Skype, dai, vabbè, Skype. Utilizzare Skype. Utilizzare Skype sempre, sempre. Eliminare le missioni all'estero. Quasi se, eliminare, tranne in casi. Sì, esattamente. Esattamente. Sembri Beppe Grillo, mi sembra. Rete col telefono. Assolutamente. Telefono, assolutamente, ma assolutamente. Ma non funziona così. Funziona così. Scusa, che cosa può servire un summit a Tangeri con Grasso e la Boldrini? Cioè, diciamoci la verità. Beh, dipende, annulla. Annulla. L'altra notizia viene da Roma, caro Parenzo. Non so se hai saputo, forse qualcuno ne ha parlato anche oggi in qualche trasmissione qui a Radio 24, ma i signori dell'ATAC, azienda che andrebbe piallata praticamente, andrebbe asfaltata e bisogna ricominciare da capo, cioè fatta fallire e si ricomincia da capo, perché è irrecuperabile, è evidente. I signori dell'ATAC, che è l'azienda di trasporto normale, hanno messo uno sciopero, tu lo sai quando? Proprio nel momento in cui ci sarà la partita Italia-Belgio. Beh, sono stati lungimiranti. Dai. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Ulderico, Milano, vai. Sì, pronto? Vai, dimmi. Ah, ciao, buongiorno. Vai, Ulderico, vai, parla, su. Ah, benissimo. Ok, allora, la questione è semplice per il nostro piccolo mercato milanese, sembrerebbe cioè, molto che succede? Per che il succede? Mercato mondiale. Che succede? Scusami, Ulderico, che succede? Dimmi, raccontami. Praticamente io ho un piccolo ristorante qua a Milano, dove attualmente mi trovo per lavoro. Sì. E sono stato attaccato più o meno da tutto il mondo, Oceania, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, New York, a causa dell'esposizione di uno smeriglio. Cioè, non ho capito, tu nel tuo ristorante hai esposto uno smeriglio, che sarebbe? Che è un vitello di mare, una razza di squalo. Sì, un piccolo squalo praticamente. Sì, un piccolo squalo che cioè tu l'hai esposto, dove l'hai esposto? Esposto su ghiaccio, come capita in parecchi ristoranti italiani, all'interno del locale, poi servito come pietanza particolare. E allora? E hai pubblicato questa foto dove? Sui social, nostri social. A dire il vero non l'ho pubblicata io, l'ho pubblicato un mio cliente. Vabbè, uguale, dai, comunque è stata pubblicata una foto. E da quel momento in poi che cosa è successo? Da quel momento in poi ho ricevuto degli attacchi da parte di buona parte del pianeta sui social, finte recensioni sulla pagina di Facebook, adesso... Ma da parte di chi? Da parte di diverse organizzazioni, biologi, piuttosto che uno di questi addirittura è Paul Watson, un attivista che ha fondato Greenpeace. Vabbè, comunque sei stato attaccato sui social perché hai esposto questo piccolo squalo. Vabbè, ma è una cosa ormai normale, cioè i matti purtroppo esistono ovunque. A proposito di animalisti e dintorni, per gli animalisti ci sono alcuni animalisti che sostengono che le donne arrostite dall'ISIS sono praticamente uguali, cioè arrostite nel senso bruciate vive dall'ISIS nei giorni scorsi, credo 19-20, sono come le lumache bollite, ti giuro, ho letto su un'associazione animalista, hanno paragonato le donne bruciate dall'ISIS alle lumache bollite, idioti. E altre associazioni ancora sostengono che bisogna educare i bambini a non pescare i granchetti in riva al mare. Sai quando i bambini vanno a pescare i granchetti in riva al mare d'estate? Come no? Io vado sempre tutte le estate con mia figlia. No, non lo fare. Si uccidono. Ma vai a quel paese. Si uccidono esseri senzienti. Mauro da Milano, vai Mauro. Buonasera, senti, io volevo intervenire a proposito di Buonanno. Dimmi Mauro. Volevo dire, io sono di estrazione, prima ero cristiano, per cui mi dispiace sempre quando muore qualcuno, anche Buonanno, anche Mussolini. Allora? Però non possiamo dire che il mondo non è migliore con la morte di certe persone. Tu sei semplicemente un coglione. Per me era meglio che non moriva. Per carità, era meglio che non moriva. Ma allora scusa, prima dici che è meglio che non moriva e adesso dici che è un posto non migliore. Non puoi dire che il mondo non è migliore quando una persona per farsi parlare di sé, per farsi politica, si mette a creare odio sociale. Io non ho mai presentato una legge contro i rom, che ne so, avrebbe detto chi non lavora da 3 anni e ruba gli aumentiamo la pena. No, loro gli interessa l'odio, come interessa anche a te nella tua trasmissione, però tu non ti presenti come un Salvatore. Io faccio lo showman radiofonico, faccio la telefonata. Senti Mauro, se tu pensi che il mondo è un posto migliore perché è morto l'onorevole Buonanno, perché c'è uno di questi in meno, ma a me mi dispiace, però guardi, non devi essere ipocrita. Non sono in contraddizione. Ma come non sono in contraddizione? Certo che sono in contraddizione. Ma anche Mussolini faceva andare i treni in orario. Ma non per questo. Mauro, se tu pensi che il mondo sia un posto migliore senza Buonanno, allora non puoi dire. Però mi dispiace. Ma certo che dispiace. Ma cosa pensi? Che muore uno e non ci dispiace. Muore uno giovane. Ma se tu dici che il mondo è un posto migliore, è una pena. Però il mondo è un po' più buono, dai, non puoi dire così. Il mondo è un po' più buono, ma ragazzi, hanno voi siete matti. Fatica a creare odio, prima i napoletani, Mauro, poi i napoletani non sono più un problema per la Lega, poi gli stranieri, poi i profughi, cioè Radio Padani la fai sentire anche tu, no? Voglio dire, c'è un po' meglio, un po' migliore, dai, come la mafia, voglio dire, chiaro, con un mafioso in meno il mondo è più buono. Ma tu stai paragonando? No, quando delle cose negative non ci sono si vive un poco meglio, ma tutto il dolore, veramente, io mi immagino. Ma non è che tutto il dolore, ma chi è tutto il dolore? Chi lo dice tutto il dolore? È un dolore sapere che un uomo muore. Ma no, ma tu sei ipocrita, perché dovresti essere, se dici così, dovresti essere contento della morte di una persona. Se tu avresti potuto sparare in testa a Hitler, non avresti provato dei sentimenti. Ma stai paragonando Buonanno a Hitler. Con Buonanno, dai. No, non li sto paragonando, non mi mettete parole bocca. Oh, a proposito, fermo Mauro, a proposito, abbiamo già detto di domani di Mein Kampf, Mein Kampf in omaggio col giornale Parenzo, grande carità, indignazioni delle, ma che porcheria, indignazione è normale, c'è un libro che venderà per cui la gente comprerà il giornale, un'operazione commerciale. Tu non sei curioso, molta gente è curiosa del Mein Kampf, che cos'è, ma questa roba qua che ha generato terrore e orrore, ma va dai su, ottimo a Cruciani, ma come te pettini che amicette. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Ma io non capisco perché lasciate ancora la possibilità di intervenire alla gente che quando chiama saluta, fa i complimenti per la... Hanno rotto il cazzo, basta! Non ce ne frega un cazzo di sentire i saluti e i ringraziamenti della gente. Volete dire qualcosa? Ditela, se no andate a fanculo. Ragazzi, la questione della pipì sotto la doccia, voi la trascurate, caro Parenzo. So che sei lì a Santa Margherita. Ti devo dare una notizia. No, ti do una notizia prima di tutto. Sono stato durante la pausa giù, è arrivato Matteo Renzi che sta parlando. Ti dico in via ufficiale che ho parlato con il portavoce di Renzi e siamo in trattativa per farlo venire qui alla Zanzara. Ma che stai dicendo? Lui mi ha detto: "Ah, beh, stai ho detto: "Ah, sì, potrebbe essere carino". E io gli ho detto: "Ma per un'intervista?". "No, per fare il conduttore". Vabbè, comunque fammi parlare di cose serie. Davvero? Non di Renzi, dai, di, sì, di cose di cui si occupano tutti, non di cose che ha detto Renzi, che dice le stesse cose ogni giorno, dai, su. Non dire così, perché sono qua a Santa Margherita. Non dire così. Dai, questa roba qui, per esempio, buono, che ha detto ieri degli 80 euro, no? Che sono una mancia elettorale, sono esattamente come il voto di scambio. Cioè, sono la stessa cosa. Ovviamente. No. Non è vero! Secondo me sì. Cioè, è una cosa ammantata. È una cosa ammantata, ovviamente, da un provvedimento istituzionale, perché è un provvedimento istituzionale. Però io penso che in fondo la questione degli 80 euro. Degli 80 euro di Renzi sia esattamente come il voto di scambio. Ora, ovviamente, non è che sta lì Renzi fuori dal seggio a dire quanto vuoi per votare, 10, 20 euro, 30 euro. Ma in fondo è come il voto di scambio. Ma questo è stato già detto, per carità. 80 euro, questo è l'elogio di Renzi agli 80 euro, ma d'altra parte è quello che è lui che li ha introdotti, è lui che l'ha fatto. Siccome conosco delle persone che guadagnano 1000 euro al mese e non riescono ad arrivare alla fine del mese e grazie agli 80 euro si sono permessi uno zainetto in più, una cena in pizzeria in più, io su questo sono contento. È una valutazione che rispetto. Oh, ragazzi, che gli 80 euro non fossero apprezzati da voi lo sapevamo da tempo, ma che gli 80 euro fossero una misura di giustizia sociale verso della gente che non arrivava a guadagnare nemmeno 1500 euro al mese, lo rivendico con forza. E tralasciamo pure la parte sulla restituzione, anche se Renzi dice che in realtà alla fine più persone prenderanno 80 euro rispetto a quelli previsti. Ma stavo dicendo una cosa fondamentale al di là della politica, è la questione della pipì sotto la doccia. Mi comunicano questo. Sì. Cose scientifiche, fare pipì nella doccia può migliorare la vita sessuale delle donne. Accucciarsi per fare pipì significa allenare il pavimento pelvico, un'area del corpo che, se mantenuta tonica, può rendere migliore la vita sessuale delle donne. Questo è fondamentale, eh? Accucciarsi nella doccia per fare pipì aiuta a fortificare questa zona che viene chiamata in causa molto più spesso di quanto si pensi. Il pavimento pelvico, ottimo. Oh, la Mussolini oggi si è arrabbiata durante Agorà per un servizio su Berlusconi. Senti, contro Gerry Greco, contro Gerardo Greco, sentite. Parlavamo della RAI, no? Del canone RAI, del servizio pubblico. Stamattina ho visto Agorà con Greco. È stata una cosa vergognosa. Addirittura hanno messo una musica sotto che mi sembrava una fiction, a parlare di Berlusconi quasi fosse stato già non so in che modo. Hanno fatto vedere Musumeci. Insomma, non le è piaciuto come si sono occupati del tema? Non mi piace il tono, no, non lo devono fare, non se lo possono permettere, visto che c'è gente che paga il canone. Allora tu vuoi fare l'ironico, così. Io sono rimasta allibita, mi sembrava un attore di una fiction passata che tu dici ma... Ragazzi, ma ognuno fa il cazzo che vuole. Non si capisce perché non si possa parlare in queste ore di successione a Berlusconi. Se uno ha avuto un grave problema e il medico dice che deve lasciare la politica, è normale che la gente, i giornali, soprattutto perché la gente non gliene fotte nulla, faccia dei servizi, degli articoli, quello che è, su possibili successori di Berlusconi. Non mi sembra che ci sia. Sì, ma la vedi. Ma non mi sembra che ci sia l'attentato al re, no? L'attentato alla. Cioè, no, non però, c'è nessun attentato a Berlusconi, nessuno sta lì ad augurarsi la morte di Berlusconi, dai. Che c'è? Dimmi. C'è che una c'è? Cosa curiosissima. Cioè, a fare quella conferenza stampa è stato il suo medico personale, nonché responsabile della sanità di Forza Italia. Ora, uno si domanda, ma questa uscita che il suo medico personale ha fatto, l'avrà concordata con il partito oppure no? Guarda che non è una roba da poco, perché stiamo parlando del leader... Sì, certo, non c'è dubbio. No, ma questa roba qua Infatti, secondo me, il medico di Berlusconi... Sono tutti incazzati con Zangrillo, vecchio mio. Secondo me sì. te lo dico io. Ma no, ma ci credo se me lo dici tu, eh. Cioè, berlusconiani molto vicini a Berlusconi, molto incazzati con il medico di Berlusconi. Sono perché incazzate con Zangrillo. Perché ha detto una cosa che non doveva dire. Cioè, deciderà Berlusconi se è il caso di lasciare la politica o no. Allora, Mussolini dice anche che Gerardo Greco è brutto. Però sti cazzi, cioè... Meno male che io vedo la 7 e anche altri canali. Questo ci fa molto piacere. Perché sai che voglio io sapere Greco una cosa. Non lo vedo, voglio vedere più. Ho capito, è sufficiente che lei cambi canale. Io non diciamo. Ho parole. Voglio no, sapere ma adesso, no, non cambio canale. Io purtroppo lei pago non vorrebbe, il canone. Lei ho capito. No, io non posso cambiare canale. Devo pagare il canone per vedere Greco che fa... Oh, ma prudenza, brutto. Con le luci che gli fanno gli occhi, ma lo volete mettere un attimo in onda a vedere la faccia che ha fatto? Ma no, ma anche no. Va bene ragazzi, andiamo sui 5 stelle su Roma. Si parla molto di Olimpiadi, come sapete, le Olimpiadi a Roma, e sono diventate argomento di campagna elettorale, cose incredibili. Olimpiadi sì, Olimpiadi no. Sostanzialmente, se votate la Raggi non volete l'Olimpiadi, non volete l'Olimpiadi. Se votate Giachetti volete l'Olimpiadi. Però i 5 Stelle non è che sono così chiari. Senti la Taverna, la signora Taverna, dagli amici di Cusano Campus, ha detto che sarebbe il caso di posticipare le Olimpiadi. Ti giuro, posticipare le Olimpiadi. Da persona che vive e soffre la città quotidianamente, dovessi essere interpellata in merito, chiederei sinceramente di posticipare le Olimpiadi, eventualmente dopo aver ristrutturato la scuola di mio figlio, dopo aver pulito i tombini che si allagano ogni volta che fanno due gocce d'acqua. Ma tu ti rendi conto, no? Cioè, da persona che vede i mali della città, cioè quello che non funziona nella città, chiederei di posticipare le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono per quella data, la candidatura è per quella data, il 2024, non si può fare altro. O dici di sì o dici di no, non è che posticipare il referendum a 7 mesi prima della scelta delle Olimpiadi non si possono fare, si devono fare prima. Uno sceglie, l'amministrazione dice si di no. Si possono fare nella rete, le Olimpiadi si fanno in internet, nel computer, con l'iPad, cosa serve costruire infrastrutture? Scarichi l'app e fai l'app con le Olimpiadi. Allora dai, Emiliano da Roma. Puttana. Emiliano Roma, vai. Buonasera, dimmi. Volevo parlare del caso del cosiddetto femminicidio. Sì, che non esiste, no? Che non esiste. La cosa più incredibile è che il governo vuole stanziare, ho letto oggi, 12 milioni di euro, per non so che cosa, forse per fare qualche lezione nelle scuole, per dare qualche soldo a qualcuno che le fa, non lo so, contro il femminicidio, divento pazzo io. Cioè la Boschi ha detto che il governo stanzierà 12 milioni di euro contro il femminicidio, educazione nelle scuole, gli ultimi terribili fatti di cronaca di questi giorni ci raccontano ancora una volta di violenza sulle donne. Ogni vita spezzata è un colpo al cuore, un nodo alla gola. Il primo pensiero va certamente alle famiglie, all'immenso dolore davanti alla vita di una figlia, di una madre, eccetera, eccetera. La vera sfida che dobbiamo vincere insieme è quella educativa e culturale. E basta, ragazzi, vi metto mano alla pistola. Sfide educative e culturali, metto mano alla pistola. Che dicevi, Emiliano? No, perché sono andato a vedere i dati ufficiali, ho preso come riferimento i dati della Direzione Centrale Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale. Bravo. Che fanno riferimento agli anni 2013 e 2014. Dunque? E dunque sono stati 505 gli omicidi nel 2013, sì. Di cui il 33% hanno visto vittime le donne. Mm. Ma di questo 33%, solo il 48% è vittima di omicidio da parte del partner o comunque un omicidio. Sì, ma al di là di questo, che già è fondamentale, ho già detto ieri, esistono dei dati sul fatto che gli omicidi nei confronti delle donne sono diminuiti, stanno dicendo una marea di cazzate, ma non per rendere meno grave un omicidio, vogliono addirittura aumentare la pena, ma una cosa folle. Fermi lì. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Costa Rica, Playa Tamarindo. Anche la mattina, tra una lezione di surf e un margarita, loschi figuri mi si avvicinano chiedendo marijuana, cocaine. Io immancabilmente rispondo: Zanzara. tu lo sai, Parenzo, che io non riesco veramente a capire qual è il problema, perché alcune persone, tra cui te, immagino, si siano indignate, la comunità ebraica, eccetera, per questa roba del giornale, certo, di Alessandro Sallusti, che domani regala insieme al quotidiano, se uno va là e compra il giornale, il Mein Kampf di Hitler. Io, per esempio, non ce l'ho. Perché? Ma giusto per avere perché una... è un libro... Non esistono libri proibiti, questo è vero, ma che dai, senso su, ha che un giornale peraltro di opinione... Ma date, ma lascia perdere il giornale d'opinione, questione... ma che c'entra, dai, no, su. No, ma scusami, un giornale che sul tema dell'immigrazione ha costruito delle vere e proprie campagne... Ma cosa cazzo c'entra? Per ma carità. Che c'entra? Ma che c'entra? Ma che fratello ti inventi? Mio, ma fratello ma cosa mio, ti stai ma inventando? Mio, ma fratello mio, ma che se adesso, il giornale mio? Avesse regalato un libro... Fratello mio, ti voglio dire, se il giornale avesse regalato un libro di Gandhi, fratello mio, un libro di Gandhi sul o di Kant, il progetto per la pace perpetua, dai, su, David, nessuno non dire si cazzate. Sarebbe indignato. Date troppa importanza ad una no, cosa che non esiste, dai, su. Ma quale cosa? Operazione squallida indecente, ma dai. Ma cosa tua... c'entra l'immigrazione con Hitler? Scusa, cosa cazzo c'entra? Ma cosa c'entra col Mein Kampf? Sei tu che fai sto collegamento? Sei tu che fai il collegamento? Ma quale campagna stampa? Ma che dici? Non sono stato l'unico, evidentemente. Le campagne stampa del giornale sui Rom. È un libro che allora va regalato, allora un libro non ho detto anche che va... i bambini, ma... il libro del Mein Kampf, va bene. Senti, benissimo, è un abbiamo libro pubblicato, sì, abbiamo ripubblicato, certo, un Mein Kampf, un libro normale, normale. Ma dai, su. Ma cosa c'entra? Ma è un... Allora, queste cose bisogna farci una risata sopra. Cioè, ma è un libro che suscita anche curiosità. Gioco, in Germania è stato ripubblicato. È stato ripubblicato adesso e ha venduto un sacco di copie. È proibito. In una fase è fanno stato anche un'operazione come... Adesso è stato no. ripubblicato in Germania, ok? Benissimo. E il giornale fa un'operazione... Ma non con il giornale. No, il giornale fa un'operazione commerciale per vendere più copie, perché sicuramente... Ma, la gente è curiosa. Ma mi spieghi perché? Ma non per un'operazione commerciale. Ma commerciale, ma ti fa così schifo l'operazione commerciale a te? No. Ma non vendono, regalo. Beh, un po' mi fa schifo l'operazione commerciale. Ti fa schifo perché il Mein Kampf. Invece ma tanti quello testi che io associo. Sì. È la campagna che il giornale ha costruito sulla vicenda dei migranti. Ma cosa cazzo c'entra? Rom, eccetera, ma cosa e c'entra? Poi pubblica il libro del Mein Kampf e poi pubblica pure il Mein Kampf. Dai, è subito. Sergio dai. Da Padova, non dire cazzate, dai, su, dici delle cazzate. Ma che dire, Sergio, non ma ci che credi dice, nemmeno Sergio. Te, non ci credi, dai. Sergio da Padova, dai. Ti assicuro, no, se no io non ci credi nemmeno te, vai che dietro a quello dico. Che dice la comunità ebraica ufficiale, quella è la realtà. Sergio da Padova, ma libertà, io non ho visto libertà cosa e dice libertà, comunità, anche di leggere Mein Kampf. Libertà, libertà e libertà, punto. Sergio da Padova, ma non bisogna avere... ma perché un giornale non bisogna avere paura, non bisogna avere paura di queste cose, non bisogna avere allora paura. E allora si vendessero anche i gadget di Mussolini in allegato con il giornale, quello si che vendessero quello già anche si quei gadget lì allora. Sergio da Padova, dai, è diverso il come gadget da un vendono? Testo, dai. Sergio da Padova, dai. Come già si vendono? No, già si vendono in giro, dico, Sergio da Padova. Sergio, forza. Sergio. Vabbè, Ugo da Milano, dai. Ciao. Dimmi. No, a proposito di libertà, è giusto quello che dici, ma qui non siamo liberi. Perché non siamo liberi? Dimmi, Ugo. Vabbè, io ti parlo perché ho chiamato. Io ho chiamato proprio perché praticamente io sono stato rovinato per uno spinello. Sei stato rovinato per uno spinello? In che senso, scusa? Hanno beccato mio figlio con più o meno un grammo di fumo, sì. Quindi processo, penale, un grammo, ovviamente. Un grammo? Sì, tutto documentabile. Vabbè, allora... Tutto quello che dico, chiami in privato e ti porto tutte le carte. Sì. Dopo che l'hanno condannato, il giorno dopo la condanna, sì. La legge Giovanardi è stata dichiarata illegittima, dopo 8 anni. Io poi ovviamente ero un po' ignorante in materia, mi sono un po' documentato per capire, perché dicevo dunque... impossibile che mio figlio abbia preso... Quindi chiedo, visto che voi avete tanti politici, quando è che faranno una legge... per tutelare i ragazzi. Ma guarda, io non lo so, guarda, amico mio, per me è già una follia, però, è già una follia che tuo figlio sia stato, come dire, abbia avuto delle conseguenze amministrative, un anno penali. Adesso, un anno per un grammo di hashish, cioè, francamente mi sembra troppo, forse allora, non era solo un grammo, scusami, forse non era solo un grammo. No, ascolta, tutto quello che dico è documentabile. Ti chiedo una cosa, ma tu sai che cos'è in Italia, che cos'è lo spaccio di droga? Sì. Cioè, non pensare che sia lo scambio dei soldi e droga. Sì, la basta anche che la tuo amico ti dà una canna, sì. quello è spaccio. Dunque lui è stato condannato a un anno per spaccio? Sì, certo, esatto. può essere. Con un grammo di fumo. Con un grammo di fumo. Ugo, ma dopo, tuo figlio che cosa fa? È un consumatore abituale tuo figlio? Pronto? Credo di sì, si fa le canne. Sì, si fa le canne, ma figurati, ognuno fa quello che vuole nella vita. Ma come se le fanno, credo, l'80% dei ragazzi. Sì, io non sto dando dei giudizi giusto, sbagliato, figuriamoci. Ognuno per me fa quello che vuole. Cioè, se tuo figlio si fa le canne, beh, avere un grammo, dico un grammo, ed essere condannato a un anno, un anno. Sembra un gioco di parole. Per me è pura follia. Cosa vuoi che ti dica? Per me dovrebbero essere legalizzate le droghe leggere. Io ho dovuto spendere 15.000 euro, sì. Ho dovuto vendere casa, sì. Dopo che, attenzione, perché c'è tutto un retro prima, perché hanno provato a incastrarlo in qualunque modo. Scusa, vendere io casa per almeno ho 8 perquisizioni domiciliari senza mandato, perché... Tu non lo so se vabbè, lo sai, Ugo, adesso non andiamo nel dettaglio. Mi stai dicendo che hai dovuto subire... Penso che tanti come me hanno avuto questa situazione. Cioè, tu credo mi sei... che tanti in Italia l'hanno avuta. Scusami un attimo, perché ti sei dovuto vendere casa per 15.000 euro? Non ce l'avevi? Eh no, che non ce l'avevo, io sono operaio. Io guadagno 1.300 euro al mese. No, ma avevo un mutuo. Cosa vuoi che ti dica, adesso Ugo? Sono in affitto. Per me, ripeto, per quello che mi hai detto è pura follia. Io sono per la legalizzazione. No, ma infatti io ho chiamato, visto che tu hai tanti politici che vengono lì e vabbè, ma quello è un tema che abbiamo affrontato. Quando è? Mai. Legge c'è mai. Adesso in vigore? Sì. C'è la legge della Iervolino. Sì. Mai. Non la faranno mai. Ciao, Mimmo da Roma. Buonasera, lor signori Cruciani e ciao, Parenzo. Ciao, dimmi. Ciao. Ho una tesi sul ricovero di Berlusconi. Sì, qual è sta tesi? Lui vuole vincere a Milano. Attenzione, tu stai dicendo... Ancelotti. Che c'entra Ancelotti? Quando Ancelotti doveva anche allenare Milan, un po' di campagna così elettorale. Cioè, secondo te si è sentito male apposta? Cioè, tu non si deve operare al cuore, è tutta una strategia? Potrebbe essere. Vabbè, ma tu sei bagato in testa, cioè, Mimmo. Cioè, tu pensi all'effetto emozione, cioè Berlusconi malato e la gente... corre nei seggi a votare per Parisi a Milano. Potrebbe che cazzata. Essere. Vabbè, è una cazzata. Cioè, ti posso assicurare. Ma ti posso assicurare che è una cazzata. Cioè, Mimmo, non è così. Cioè, non... A parte che queste cose non funzionano più. Cioè, funzionano la morte. Funzionare, può funzionare forse la morte a pochi giorni dalle elezioni. Ma non dico di Berlusconi per in generale. Carità, ma non dico di Berlusconi, dico in generale. No? Può funzionare in teoria la morte a pochi giorni dalle elezioni, ma non è che tu programmi la morte, anche perché quando muori, che cazzo te ne frega? Dici quello che accadde a Berlinguer, prima delle europee. Sì, per una carità, cosa di questo tipo. Per carità. No, ma sto dicendo che potrebbe funzionare in questo caso la morte. Non è questo il caso. Non credo che Berlusconi operato susciti emozione da parte della gente che era incerta su chi andare a votare nelle grandi città e vota per il candidato dov'è al ballottaggio di Forza Italia. Caro Mimmo, te stai a sbagliare, secondo me. Rita Milano, vai. Eccomi qui. Buonasera. Dimmi. Sono parzialmente d'accordo con parzialmente lei. D'accordo. Per il discorso, sì, parzialmente, per il discorso del femminicidio, ma credo ci voglia prevenzione. Non ci vuole nessuna prevenzione su questa cosa qua, purtroppo. Quando l'animo umano, quando uno impazzisce e quando uno c'ha il cervello storto, non c'è prevenzione che tenga. Che cosa vuoi insegnare alla gente? A non uccidere? Già lo sappiamo. Che vuoi insegnare? Il rispetto delle donne? No. Ma lo sentiamo dappertutto. Non c'è bisogno di spendere dei soldi, come vuole fare il governo, 12 milioni di euro per fare un cazzo, per fare che cosa? Cioè per fare cosa? Mi lascia parlare? I fondi per la prevenzione del femminicidio, vada ai matti io, spendere soldi, buttare i soldi al cesso, no, 12 milioni buttare, buttati al cesso. Non è buttare perché io sono in contatto con un'amica proprio in questi giorni, non si sta prendendo conto di quello che sta vivendo. Io intendo la prevenzione in questo senso. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Insomma, cosa vuol... sono libera di pensare prevenzione su che come queste cose qua non si possono prevenire. Cioè puoi prevenire il cervello storto di una persona che pensa che la donna sia di sua proprietà e la voglia poi ammazzare. Come fai a prevenirlo? Puoi spendere pure 50 milioni. Prevenire il fatto di conoscere i sintomi, di capirli e di sapere dove andare, quello sì. Ma quello fa parte di un'altra cosa, signora mia, fa parte veramente di un'altra cosa. Dai, su, ma è una cazzata questa roba qua, è una minchiata colossale spendere dei soldi sul femminicidio, è una roba per spendere, per mettere una bandierina, per fare una dichiarazione, per dire forse stiamo facendo qualcosa. Lei, forse perché se lei non è una donna. Ma che minchia c'entra, dai, su. No, c'entra. Posso dire che lo sto non vivendo in questi donna. Giorni con una cara amica. Che ha fatto questa cara amica? Che ha fatto? È stata picchiata? Che ha una voce garbata questa signora. Non si sta rendendo conto. Di che cosa? Del marito che la picchia? Di quanto abbia messo a repentaglio. Il marito la picchia? Sua. Anche sì. Il marito alla picchia, si rivolgesse alla cosa, non è che già fatto. Punto, però ma che c'entrano i soldi spesi dal governo per fare per motivi culturali o di insegnamento di cosa? Perché di cosa? Io penso che non è che nelle scuole o da altre parti insegnano la violenza. Se poni degli esempi, non la metti, ma puoi scappare, puoi sapere dove andare. Ma questo si sa già, dalla polizia, dai carabinieri, certo, dalle forze dell'ordine. Certo, ma a un certo punto non basta più. Non basta più. E dunque staccarsi e andare via. Vabbè, ho capito, ma se uno non ha la forza, ma a chi rivolgersi? A chi? Alle persone che sono vicine? Dipende dalle situazioni. Alcune volte non basta, sì, proprio perché non c'è la cultura. Non c'è la cultura. La penso così. Io vado ai matti. Me ne vado, ti giuro me ne vado. Ciao. Caro Parenzo, grande ritorno alla Zanzara, Grande ritorno alla Zanzara, sentiamo se è in forma. Marione Borghezio, buonasera. Buonasera, buona Zanzara a tutti. Come andiamo, Marione? Come andiamo? Bene, siamo qui che lavoriamo indefessamente. Per chi lavori? Non esageriamo. Non esageriamo. Contro il Partito Democratico. Contro il Partito di Renzi. È un piacere, non è un lavoro. È un piacere, è una goduria, come dire, è una goduria. Proprio di sì. Mi sembra di aver capito che nella tua Torino, dove sei residente, tu devi sapere, Parenzo, io una volta sono andato a casa del Borghezione. Sono nato a Torino. Sì, lo so. Sono andato una volta proprio fisicamente dentro casa di Borghezio. Sono entrato. Com'è la casa di Borghezio? Amico mio. Non ordinatissima. Non ordinatissima. In particolare la cucina non è particolarmente curata, la cucina. Non ci sono mai. È una specie di biblioteca, sostanzialmente, la casa del Borghezium, in cui c'è un piccolo letto, praticamente come se fossimo al militare, come se fosse una caserma, no? Un piccolissimo letto, un armadio di legno antico, tutta arredata, diciamo, con mobili, credo, degli anni 50 o 60, che tu apri questo armadio e senti anche, sai quando apri gli armadi, senti... gli armadi così? Sì, certo. Però un bel armadio, un armadio di quelli così. Dentro ci sono... I libri anni 30, di qualsiasi tipo. Molti libri di quando c'era lui. Molti libri d'epoca, diciamo così, d'epoca. Tu apri questo armadio vedi tutti gli uffici e tutti vestiti completi, no? Tutti completi, molte camicie verdi. Divise militari, no. Ci sono diversi cimeli, eccetera. Comunque, questo per dire, Borghezio è residente a Torino. Credo che abbia un voto chiaro, che esprimerà al ballottaggio un voto chiaro, preciso. Un voto chiaro per Chiara Appendino. Che se lo merita. Addirittura, tu con i 5 Stelle. Ma mica un voto di partito, un voto di simpatia e comunque è anche di antipatia per l'altro. Ma i tuoi amici leghisti di Torino, per chi voteranno? Tu li inviti a votare Appendino? Io sento bene, non sono ancora potuto andare a fare i tiri approfonditi perché... Però dirai di votare per Appendino. No, ho già detto, sparpagliato la voce e... Voto Appendino, com'è che si dice? Voto Antonio, com'è che si dice, Marione? Vota Chiara. Non pensarci su, non stare a vedere 5 Stelle, Grillo, eccetera. Una volta chiara che è un bel voto. Ma voi loro un po' ti schifano quelli dei 5 Stelle. Modestamente a me mi schifa tutto l'arco politico, quindi non è che faccio... Ma pensate al nostro povero onorevole Bonanno, lo schifavano tutti, no? Gli altri degli altri partiti, poi adesso sono diventati tutti, beh, tutti i suoi fan, tanta ipocrisia, tante strette, io ho ancora a mano adesso che dolorante per le strette di mano che ho avuto al Parlamento Europeo, ma sarà. Comunque io non ho capito, ma cosa ha meglio di Fassino, sta Appendino a Torino, Marione? Beh, diciamo, onestamente parlando, non è un gran complimento per la Chiara, ci vuole anche poco a essere meglio di Fassino. Ah, dici dal punto di vista vorrebbe, fisico, estetico. Ci vorrebbe poco, diciamo. Sì, perché Fassino è un uomo triste. Fassino è un uomo triste, dai, su. Ma che c'entra? Deve governare la città, è un non è che fa una sfilata triste, di moda. È un politico triste, sembra un salice piangente. Non voglio affermare perché non appartengo a questa cultura partenopea, sì. Ma diciamo che bene non porta, ecco. Bene in che non se? Porta. Ah, tu dici, porta, città, porta sfiga, dici, città. Porta sfiga, dici. Ma bene non porta, ma perché la città dici è andata cosa? Indietro, si è ingrigita. Ma quello è la propaganda questa politica, città, dai. Questa non è una, questa è una città delle serrande chiuse che la scritta vende. Marione, sì. Dimmi una cosa, ma tu alla fine perché preferisci Stappendino? Ci sarà un motivo vero? Cioè, perché non che ne so? No, cioè... intanto mi pare una persona, gode di una buona fama a Torino, è persona seria, che viene da esperienze professionali, persona pulita. Anche la faccia pulita, no, questo non vuol dire che Fassino abbia la faccia pulita, eh. Però l'Appendino c'ha una faccia molto convincente e anche si presenta bene e gode anche di buona stima a Torino. Io diciamo che probabilmente ci hanno anche fottuto qualche voto. Perché, comunque, Parenzo, tu che ne pensi di questa cosa, di questa asse Borghezio Appendino? Guarda, francamente non mi stupisce per nulla, perché è evidente che Borghezio, pur di far perdere come la Lega, pur di far perdere il Partito Democratico. Borghezio segue. Senti, ma ti voglio chiedere una cosa. Io mi ricordo un vecchio detto di Mao Zedong. Non ho capito, Parenzo, che dici, ragazzi? Non vi accavallate, su. No, Parenzo. Ho detto che mi ricordo un vecchio. Non si sente il cazzo qua. Mi ricordo un vecchio detto di Mao Zedong che diceva: non importa di che colore sia il gatto, importante è che prenda il topo. Per lui la cosa importante è far perdere Fassino e il PD, e quindi per questo vota l'avvocato Appendino. Ma, non è che gli piace l'Appendino in 5 Stelle. Non questo importa che sia il gatto Borghezio a portare voti, l'importante è che l'aiuti a prendere il topaccio. Senti una cosa, ma comprerai domani il giornale che distribuisce il Mein Kampf? Ma io lo compro sempre e quindi domani non farò eccezione, non perché... Ma tu ce l'hai già, tu ne hai già. Io l'ho letto, diciamo copie. Così, non voglio dire appena nato, ma insomma l'ho letto dall'età della ragione, perché bastava che mi dicessero che non bisognava leggerlo e io sono uno di quei tanti personaggi che diciamo cioè, tu le cose proibite. Lo hai compulsato in maniera... No, l'ho letto e l'ho trovato un po' pesantino. L'ho letto in biblioteca, direi. Perché non si trovava. Quell'uomo con i baffetti non scriveva proprio. Ma c'è qualcosa da salvare in quella immondizia lì? C'è qualcosa da salvare? Mal tradotto. Che prima di tutto bisognerebbe salvare... Mal tradotto, cioè mi ho letto un'analisi. No, però voglio sapere, chiedeva Parenzo prima una cosa: c'è qualcosa da salvare nel Mein Kampf? Questo chiedeva. Ma io dico questo: la traduzione, certamente no, perché pessima. Vabbè, la traduzione poi... Bompiani è uno schifo. Ma che c'è da salvare? C'è una cosa da salvare? La grafica della copertina. Ma quello non ce ne frega niente, del contenuto, il contenuto. Ma il contenuto non me lo ricordo, l'ho letto che ero ragazzo. Ma il titolo ti piace almeno, la mia battaglia. Non voglio sottolineare, ma sono passati 50 anni da quando l'ho letto. E poi non ho più avuto occasione di leggerlo, pur possedendolo naturalmente, perché nella mia ampia biblioteca da qualche parte, se mi chiedete dov'è non lo so, ma da qualche parte ci sarà. Bompiani, edizione Bompiani, difficile da trovare, bellissima sovracopertina. Senti, ma tu andresti mai al Gay Pride? Ma io penso che queste manifestazioni siano poco utili, siano diciamo anche in qualche caso un po' farsesche addirittura, e che non siano utili. Ma a proposito di questo tema, io vorrei accennare a un'altra motivazione che vi fa capire aspetta un attimo, Marione, motivo... aspetta un attimo. Scusa, lasciami dire, per no, quale ma motivo i torinesi non voteranno no Fassino. Vabbè, non ce ne frega niente adesso di Fassino, fermo là. Zanzare Uakbar, Zanzare Uakbar, la zanzara. Zanzarosi, il vostro 5 per 1000 alla Zanzara. Mettete il codice fiscale di Cruciani nella vostra dichiarazione dei redditi e lui lo userà per eliminare il traffico, il meteo e tutta la pubblicità. E se ci avanza qualche soldo, portiamo Parenzo in un bordello svizzero. Il finanziamento pubblico alla Zanzara è la cosa migliore che puoi fare. Allora ragazzi, gli audio più belli di oggi però sono quelli di Lapo Elkan. Signor Lapo Elkan, senti che cosa dice il signor Elkan. Senti. Buongiorno a tutti, è con grande umiltà ma anche grande orgoglio che oggi vi parlo dell'ultimo articolo che ho scritto per il blog del World Economic Forum. Ultimo articolo scritto sul blog del World Economic Forum. Senti, senti. E credo e penso che il Rinascimento possa tornare, possa essere un punto di forza e un punto di partenza per riportare il nostro paese, la nostra Italia, là dove si merita di essere. Il Rinascimento può tornare. E al contempo stesso di rilanciare l'Unione Europea e l'Europa lavorando in questa direzione, e noi italiani dando un esempio da seguire piuttosto che dover seguire quello degli altri, e al contempo stesso essere energizzatori, portare energia in giro per il mondo. Questa è buona, lo riascolterei, David, questo qua, quest'ultimo passaggio, soprattutto per due cose: il contempo stesso che è fondamentale, e energizzatori. Risentiamo questo passaggio fondamentale. E al contempo stesso di rilanciare l'Unione Europea e l'Europa lavorando in questa direzione, sì. E noi italiani dando un esempio da seguire, certo. Piuttosto che dover seguire quello degli altri. Ah, beh, non c'è dubbio. E al contempo stesso essere energizzatori, chiaro. Portare energia, portare. In giro per il mondo. Come no? Stupendo, ragazzi, stupendo. Il Rinascimento può tornare, al contempo stesso ridare forza all'Unione Europea ed energizzarla. Noi italiani possiamo essere energizzatori al contempo stesso. Marione Borghezio, Marione. Voglio capire una cosa però, Mario. Vota chiara. Senti, è scatenato. Vota chiara. Che voti dice? Uno e prendi due, perché prendi anche il grazie di Borghezio. Beh, questo magari. Beh, questo non so se è un incentivo. L'elettorato leghista è un bel messaggio. Però io dico una cosa, Marione. Io voglio capire. Sì. Elettorato che brulica, che geme, che soffre e che si sfogherà contro anni di malgoverno e soprattutto questa cappa. Di monocultura di sinistra. Ma adesso monocultura di sinistra. Ma che soffocante di che? Non soffoca nessuno. Dove Marione, però io voglio capire una cosa. Tu sposeresti mai due gay? Cioè, da pubblico ufficiale, li sposeresti mai? Io, a dire la verità, non amo i matrimoni pubblici. I matrimoni. Vabbè, ma tu li sposeresti due gay o no? Io non ho mai sposato neanche due persone eterosessuali. Mai sposati? Io sono stato con lei per 10 anni, degli amici mi hanno chiesto, io non l'ho mai fatto perché... Primo, temevo di portare scalogna, perché poi se le cose non vanno bene è colpa tua. Secondo, non mi entusiasmo. Ma perché a te il matrimonio non ti piace? Non lo faccio volentieri, né per lui né per altri. Perché però, non ti piace il matrimonio? Però sia chiaro che non ho nulla contro il diritto di due omosessuali di fare un'unione civile. Sei a favore delle unioni civili? No, io non sono contrario ideologicamente. Poi... le considerazioni politiche. No, vabbè, però in Italia un movimento politico che ha preso una posizione. Io però tu rispetto sei... la posizione, però io personalmente non sono contrario. Niente di così sconvolgente. Vedete che tutti i pregiudizi che ci sono, cioè Borghezio è a favore delle unioni civili, probabilmente fosse stato. Ma certamente io non sono contrario, cioè non sono ideologicamente, non ne faccio una questione però ideologica. Nel, ne faccio semmai una questione politica. Nella Lega politicamente. politicamente sono leghista e sono contrario. Vabbè, ma ho capito, ho capito. Ma dottrinalmente no, perché dottrinalmente che conta? Non c'è motivo per essere dottrinalmente, non c'è un principio. Ma c'è scusami, Borghezione, politica, perché noi, perché la Lega ritiene che sia in atto un processo di disgregazione voluta. Vabbè, vabbè, ma abbiamo capito, dai. E allora per questo motivo, scusami, Borghezione, delle istituzioni tradizionali. Compagno, che c'è? Quindi non è compagno alla francese, ovviamente. Non è una posizione contro, è una posizione a favore della famiglia tradizionale. Che c'è? Dimmi, Davide, che c'è? Dimmi. Ma lo faresti tu, Borghezione? A parte che ho qui un ospite che mi ha fatto un'incursione a un profumo di cui poi tra poco ti parlo. Dimmi. Ma lo faresti l'assessore Borghezio? Ho avuto un ospite che ha detto che devo fare la fine di... del povero, sì, del come povero no. Bonanno, come no, eh? Voglia, certo, certo, certo. No, però un'ultima sempre in giro. Un'ultima, no, no, l'assessore, no, per l'appendi. L'assessore lo faresti, l'assessore alla sicurezza? Per l'appendino, per lì, per Chiara. Non, io lavoro lavoro, credo di lavorare benino. No, ma vabbè, lo faresti o no? Lo faresti o no l'assessore? Ovviamente se arrivasse una cosa di questo genere ne sarei lusingato, perché sarebbe la manifestazione di fiducia e di simpatia. Ma lo faresti? Ma direi di no. Perché è una giunta che io voglio vedere all'opera. Vabbè. Ciao Marione. Fiducia. Vota Chiara. Sempre meglio del crisantemo fascista. Vota Chiara. Scatenato. Allora ragazzi, un po' di ascoltatori, vai. Claudio da Padova, dai. Claudio dimmi. Ascoltami. Dimmi. Che io leggevo su Facebook, no, che c'era Parenzo che era d'accordo sul reato del femminicidio. Io credo sia una cosa sbagliatissima, sì, perché assolutamente. Non c'è parità di sesso secondo la Costituzione. Secondo me Parenzo, non so, può avere quello che vuole, secondo me. Sì, no, ma è Claudio, è la solito discorso che abbiamo fatto ieri. Cioè, lui è a favore del fatto che chi ammazza una donna deve avere più anni rispetto, certo, a uno. C'è un aggravante, perché la donna è più debole. E storicamente non ho mai visto una donna uccidere un uomo, mentre ho visto Massimo, molto... vabbè, l'abbiamo già fatto. Dai, cosa opposta. Massimo, provincia di Siracusa. Ma non è vero, ma... Massimo, vai. Salame. Vai, Massimo, dimmi. Intervengo sul problema delle Olimpiadi a Roma. Allora, non si sente niente. Michele da Torino, vai. Ragazzi, adesso liquido tutti così, mi sono rotti i coglioni. Ecco, Michele da Torino, vai. Negazionismo, la legge sul negazionismo. È già intervenuto qualcuno, perché stavo correndo e non avevo la radio. Perché ho un collega che voleva intervenire, volevo lasciare il passo a lui. Dimmi. Noi siamo ricercatori, siamo oltraggiati da questa cosa. Sei ricercatore di dove, scusa Michele? Matematica. Cos'è che non ti va bene? L'area di studio o la città? Cos'è che non ti torna? Non ho capito. Ma non dovrebbe tornare nemmeno a voi che siete giornalisti. Ma io sono contro qualsiasi legge che punisce il negazionismo, figuriamoci. Pensala in questi è un paletto piantato dallo Stato nella ragione teoretica. Cioè, no, ma io sono... Se uno nega la Shoah o il genocidio, per me è un coglione, ma ha il diritto di dirlo senza finire in galera. Bravissimo, punto, è il mercato, non mi interessa a me. Che deve decidere. I miei studenti che non devono più entrare in classe se io dico una cazzata del ma genere. Non può ma farlo, non può essere in lo Italia. Stato a decidere. No, ma lasciamo perdere che può fare o non può fare. È stata messa una legge in cui questo qua è vietato. Sbagliato, secondo me. Cioè, se chi nega la Shoah... È un precedente gravissimo. Non io puoi, non so non se puoi sia un precedente. Io dico semplicemente... Non puoi vietare al pensiero di argomentare. Perché magari l'argomentazione è stupida, ma sta all'intelligenza del mercato. Il mercato di chi compra i libri o di chi viene alle lezioni. Io sono d'accordo al 100% con te. Davide da Catanzaro, Davide. Ciao Cruciani, dimmi. Ciao Parenzo. Cioè chi nega la Shoah, il coso, è un coglione. È chiaro questa cosa qua, se non sembra che difendo questi qua. È un imbecille. L'imbecillità è accettata in democrazia. Dunque non si capisce per quale motivo uno che nega queste cose qui debba finire in galera o processato. Cioè, follia allo stato puro. Davide da Catanzaro. Poi per carità qualche stato l'ha fatto, non dico che... Cioè, però bisogna respingere questa roba qua. Cioè, ha ragione l'ascoltatore c'ho di prima. C'ho un ospite qui vicino. Chi c'è? Chi c'è? C'ho un chi ospite c'è? Qua chi seduto. Chi c'è? Presentamelo, chi c'è? Chi c'è? Lì a Santa Margherita Ligure. È una donna, una deputata. No, non è più deputata. Che ti conosce bene. Non è più deputata. Da quella, se deputata, è la persona di cui... Il titolo di onorevole rimane sempre, quindi onorevole si rimane sempre. Insomma. Ma chi è? Presentamela almeno, dai, su. È quella che mi hai detto prima, chi è? prova a riconoscerla dalla voce, vediamo se ma la me l'hai detto prima che buonasera, forse buonasera me l'hai detto buonasera prima buonasera a tutti voi. Chi è? Licia. Licia Kiss Me Licia. Ciao. È rimasta ciao. Kiss Me Licia lui, ciao, è rimasta Kiss Me Licia. Ciao ciao Licia, sì. Come è stai? Rimasto Kiss Me Licia, sì. Per vedere mamma mia le stesse cose che abbracciata diceva abbracciata da Renzi, eh. Come abbracciato? Ti ha abbracciato Renzi, veramente? Quasi. Ma salutato. Salutato, sì. Abbracciato o salutato? Parenzo dà delle notizie incontrollabili. Cioè. Allora, Licia Ronzulli è stata parlamentare, sì, europea, appunto, ma... è una delle più strette, sì, collaboratrici di Berlusconi, e vogliamo subito chiedere una cosa, ma come sta il Cavaliere? Come sta? Ecco, questo c'è. Beh no, sta bene, insomma lo conoscete tutti, è sicuramente un grande combattente, un grande leone, sì. Quindi l'umore è sicuramente positivo. Lei l'ha visto recentemente? Non si dice, no. Sei andato oppure hai fatto la fine di Verdini? Non credo che fai come Verdini che è stato respinto, no? No. Ma senti una cosa, ride, sta zitta finché ride. No, voglio capire una cosa. No, ride, e questa è la radio. Sei d'accordo, Licia, sei d'accordo con quello che ha detto il medico personale di Berlusconi, che ha detto che non deve fare più politica? Perché a me è sembrata una cosa un po' strana. Ecco. Zitto, silenzio. Beh, sai, la radio, lui è il suo medico da sempre. No, silenzio, sto per riflettendo. Lui è il suo medico da sempre, sì, e esprime le sue preoccupazioni. Se sì, magari pensa che qualche stress è stato un po' avventato ultimamente. Possiamo dirlo, ma no, io non voglio dire che Zangrillo sia stato avventato. Ripeto, è la sua valutazione da medico personale di Berlusconi, lo conosce da una vita e probabilmente pensa che in questo periodo il presidente Berlusconi si sia forse speso tanto. Sì, ma non poteva limitarsi. La mia opinione, vabbè, allora forse dovrei invitare lui qua e chiedergli, no, lui ti posso dire la mia. La tua qual è? Che può continuare tranquillamente a fare la politica? Sì. Deve continuare. Anche perché gli piace, nel senso, io non ce lo vedo Berlusconi senza far politica. No, questo è interessante perché qualcuno mi ha detto oggi, insomma, Licia, che in realtà la politica potrebbe essere anche un antistress. Non è vero che è una cosa che provoca solamente stress, magari per lui è una cosa che fa passare lo stress. Cioè, la domanda vera è questa, sì, non posso non fartela. È stata un po' avventata, la stava per fare Parenzo prima. È stato un po' avventato il medico di Berlusconi che si è addentrato in una valutazione, può fare politica, non può fare politica, sì o no? Cioè, ha detto una parola di troppo, questa è la domanda. No, probabilmente lui ha delle... delle che? Come ti posso dire, dei criteri che noi non abbiamo per io non so dal punto di vista clinico non era concordata appunto, con lui, no? Non era concordata con lui quella cosa lì, cioè lui questo vuole... non te lo so dire, no, forse so con la famiglia era concordata, questo non lo so, non te lo so dire, francamente non ho idea, cioè non so se prima della conferenza stampa abbia sentito la famiglia, abbia sentito il presidente, questo non lo so. Non so neanche se gli hanno rivolto una domanda e lui ha risposto alla domanda, questo non lo so. È vero che nell'ultimo periodo lui si era speso tanto anche in termini proprio fisici, facendo una grossa campagna elettorale. Allora qualcuno ha attribuito a Marina Berlusconi delle parole sul fatto che rivolte al famoso cerchio magico di Berlusconi lo avete spremuto, cioè qualcuno ha sbagliato nel far andare Berlusconi da una parte all'altra? Ma io guarda non credo più obiettivamente a quello che leggo sui giornali se non sentito direttamente dalla persona. Allora non lo chiedo a te, secondo te è stato un po' troppo, qualcuno doveva dirgli fermati, doveva accorgersi che stava male oppure no, secondo te, le persone che gli stanno più vicino? Ma sai, ma probabilmente gli è stato anche detto, sicuramente anche i figli ai tempi, cioè, gli è stato detto, però chi conosce Berlusconi sa anche che lui ascolta tutti e poi decide anche in totale autonomia di testa sua, quindi se ha sentito la volontà di fare qualche convegno in più, di fare qualche uscita pubblica in più, l'ha deciso da solo, poi obiettivamente magari alcune cose si potevano evitare, ma io non so tipo, che cosa in realtà che si questa evitare? La motivazione, ma no, non sto pensando a qualcosa in particolare, francamente non sto alcune cose si potevano evitare, cosa non si è risparmiato, no, ma quando tu dici alcune cose tanti spostamenti. No, non sto pensando a qualcosa in particolare. No, sto dicendo tanti spostamenti. Ho visto Berlusconi che non si è per niente risparmiato in questa campagna elettorale. Senti, un'ultima cosa, ti voglio chiedere un'ultima cosa, ma alla fine... No, voglio chiedergli prima anch'io un'ultima cosa. Aspetta, cosa pensi di quegli uomini che non fanno la doccia? Che schifo, guarda, una roba. Ma io non ho detto che non me la faccio, ho detto perché che me la Cruciani, faccio. Ma io ho perché detto... Cruciani? Ah, no, no, sì. Perché Cruciani si vanta del fatto che si fa la doccia soltanto una volta a settimana. Volevo no, dire un giudizio no, no, politico. Non è vero, politico. Due volte a settimana. Cosa c'entra politico? No, giudizio politico. Due volte a settimana. E in più allora, fa lui probabilmente fa parte di quella categoria. Sì. Ne ho sentito un altro due giorni fa in televisione, ecco, dire sta roba qua. Farà parte di quella categoria dove dice che il, la pelle, l'epidermide. Sì, l'epiderme, lo strato di polipi. Ma no, io lo faccio perché non me va. Con... Sì. Ma io lo faccio perché non me va direttamente. È, uno è diversa la cosa. Ma non perché il saponi aggrediscono la cute. Ma, figo, ma che me ne frega. Lei non ritiene che l'uomo che si fa la doccia una volta a settimana sia più maschio? No, per dire una cosa definitiva anche politica da questo punto no, di vista. No, non c'entra niente la politica. Ti posso dire quello che penso io. Per me una volta a settimana è un fa po' schifo, poco. So, però... È un uomo che fa la pipì nel lavandino sempre che, come ma Cruciani. Anche lui. Ma non è vero. Solo, ma non è vero. Ma non è vero. Adesso dirò una cosa che se la sento... Madonna, adesso torno a casa e mio papà si arrabbia. No, dica. Dica quello che ha detto. No, io dica. Sono cresciuta sì. Facendo la pipì del lavandino. Ma non credo. Figurati, però, vai, dimmi. Secondo me, so, sei cresciuta? L'uomo si dovrebbe sedere per fare la pipì. L'uomo, ah, l'uomo ecco, si dovrebbe c'è anche sedere. L'uomo, vero? Sì, sì. Perché bah. La tavoletta altrimenti no, c'è tutto lo schizzo sì. Del. Sì. Adoro no, quando ragazzi, lei parla di queste ma cose non politiche. È vero. Ma allora, appunto, cambiamo discorso. No, dai, un'ultimissima ragazzi. Cosa è questa, no, Licia? È veramente una battuta. Hai Licia, figli, un ulti... miei figli maschi, ma davvero? Insegno. Ragazzi, mi fai chiedere sì. Un'ultima bravo, cosa? È un grande maschi. Segno di civiltà. Ma siccome qualche maschio dice no, no per una questione di virilità. No, io ai miei figli maschi insegno a fare seduti per non schizzare. Fate schifo, fermo, vi devo fermare. Fermi. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. La zanzara. Allora ragazzi, prima del traffico, questa interruzione di merda che ci sono qua, una cosa pazzesca, guarda, cioè una cosa non si può andare avanti in questo modo, una cosa incredibile. Voglio salutare Licia Ronzulli chiedendogli però il Milan alla fine Berlusconi lo vende ai cinesi o no? Non si è capito questa cosa, sembra una situazione di beh, stallo. Adesso ma adesso tutto sì, adesso è tutto fermo perché è in ospedale, d'accordo. Di stallo. Tutto fermo. Tutto fermo perché è in ospedale. Solo per sì, questo o anche sì, perché sì, ci sono difficoltà. Fino a qua. Ma la volontà è sempre no, quella? La volontà è sempre quella? O no? No, bisogna vedere, cioè una trattativa in corso, bisogna capire bene le conseguenze di questa vendita e ovviamente uscirne, cioè vendere bene. Ma tu per esempio sei favorevole? La squadra... Certo, tu sei favorevole personalmente o no, per dimmi. Esempio? Tu che hai seguito un sacco di trattative in quest'ultimo periodo, eccetera, eccetera. Personalmente sei favorevole al fatto no, che allora... si venda... Non voglio entrare nei dettagli del deal e comunque della trattativa in corso perché non è nella mia. No, però voglio ruolo, capire se tu sei favorevole alla vendita non so, cinese. Se una... Allora, se in generale vorrei parlare, se la vendita porta ad una squadra soldi per fare la campagna acquisti, sponsor, allora se questo serve alla squadra per tornare a vincere probabilmente sì. Però poi insomma, bisogna vedere dall'altra parte che cosa bisogna cedere, no? Va bene, grazie, a presto, arrivederci. Quando faccio sesso col mio ragazzo gli dico traffico. La zanzara. Andiamo a Grosseto, Sergio, vai Sergio, dimmi. Sergio, dimmi. Niente, Davide Catanzaro, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. Di nuovo. Ascolta, due cose veloci. Giachetti risulta, non sono un giornalista quindi non posso verificare, chiedo che abbia una bella villa Subiaco, non so sì, come. Sì, perché si è un delitto, è un crimine, che cos'è? No, risulta, ripeto, prendere con beneficio. Ma ho letto sui giornali che hanno fatto delle ristrutturazioni, hanno costruito. Sergio Paladino della legalità. Hanno fatto delle piscine, hanno fatto una piscina chiedendo dei permessi, non so cosa hanno fatto. Guarda, perché risulta che è stata come casa popolare, terreno agricolo. Sì, era prima terreno agricolo. Guarda, non lo so, non sono a conoscenza nei dettagli di questa cosa qui. L'unica cosa che ti posso dire che è sicura è che questa polemica non c'è, praticamente non è cresciuta. Sì. È stata scritta questa cosa qua. Figuriamoci se avessero trovato qualche cosa sulla casa di Giachetti, alcuni giornali gli avrebbero fatto un culo così. Io personalmente, per come lo conosco, posso mettere, poi non lo so, le cose che ha fatto il padre, le cose che sono state fatte nel passato. Bravo. personalmente posso mettere la mano sul fuoco sull'onestà di Giachetti. Dopodiché poi se hanno commesso qualche errore, hanno commesso qualche cosa che urbanisticamente non va bene, se l'ha fatto il padre, se l'ha fatto lui, non lo so. Cioè questo qua vedremo, non mi pare francamente allora una cosa clamorosa. Ascolta qui c'è, c'è un problema a Santa Margherita. Allora, intanto la Mazzulli è rimasta qua e non se n'è andata. Non me ne frega un cazzo di Santa Margherita. No, dai, ma questo è il primo problema. E no, ma c'è la Mazzulli. E poi voglio farti, senti questa voce che ti vuole fare un saluto. Però sì, ma io voglio fare la trasmissione, non voglio... chi è. Sì, ma è tutta una diretta così. Ma devo fare la trasmissione, non posso stare appresso a queste minchiate. Ma devi capire dalla voce chi è. Dai, chi è? Dalla chi voce. C'è? Buonasera, buonasera Cruciani, buon lavoro. Chi è? Buonasera. Chi è? Ma chi sarà mai? Non lo so, non posso riconoscere la voce. Questa voce. Non lo so chi è. Almeno chi è? Fingi facendo finta di saperlo. No, è il voce. Ti do un indizio, diciamo. Diciamo che qui è di casa. Qui ecco. A Santa Margherita? A Santa è di casa lui qui. A Santa Margherita è di casa. A Santa diciamo, Margherita Ligure. Diciamo che tu potresti essere in qualche modo un suo dipendente, probabilmente. Ma che no, squinzi, senza no. Probabilmente. Ecco. Posso squinzi, posso squinzi, no. Posso boccia, posso boccia. Squinzi, no, boccia, napoletano, che ne so, giovane, no, napoletano un po' più non è. Giovane un po' più giovane, più giovane, giovane, più giovane, un po' più giovane. Presidente dei giovani industriali. Sono Marco Gai, buonasera. Sì, io eccolo pensavo che fosse una personalità conosciuta in Italia. Uno dice gira per strada e dice Marco Gai, dice chi cazzo è? Cioè nessuno lo conosce, detto con tutto il rispetto, grande rispetto, ma giustamente lo sa anche lui, no? Lo sa anche lui, cioè non è uno gira per strada, scusi, chi è sì, Marco Gai? Dice vabbè sì, che è gay, no, ma Gai. C'è bisogno assolutamente. Ho ragione sono o no, signor Gai? Assolutamente, anche perché la riconoscibilità è tutto, soprattutto per quello che si dice e quello che si fa. Infatti io ho l'opportunità di parlare a qualcuno molto riconoscibile per quello che dice, no, molto spesso, e quindi mi sento fortunato in questo momento. No, ma non deve sentirsi fortunato. Perché potrebbe essere veramente si chiama il bacio della morte. No, ma io ho detto una cosa molto semplice, me l'avete presentato come una cosa, dice senti, riconosci dalla voce. Dico, che cazzo è? Richard Gere? Certo. Che ne so, cioè tipo un attore, un ma scusa, io ho detto lui. Ma che vuol dire? Ma che ne so, ma non lo so, una persona conosciuta. No, non tossisca in diretta, Ronzulli. No, ma, ragazzi, dai, forza. Avremo occasione di conoscerci. Assolutamente. Ho piacere di fare un saluto perché bene. Comunque siete qua in parte ospiti e quindi no, mi fa non, piacere. Sì, siamo ospiti sempre in generale. Ringraziarvi, insomma. Grazie, grazie. Andrea D'Alecco, vai Andrea. Vabbè, questo sì, dai tu. Qui in particolare. In generale pure. Andrea D'Alecco, vai Andrea, dimmi. Ciao Cruciani. Ecco, senta questa telefonata, signor Gai, che è interessante. Andrea D'Alecco. Andrea, ciao Cruciani, grandissimo. Volevo darti una testimonianza di vita vissuta. Stasera ero di fretta e a me ho dovuto fare la doccia perché riesco in compagnia per ovvi motivi. Sì. E essendo di fretta... Che c'entra l'economia a fare la doccia? Dimmi, è importante. Sì. E mi scappava e allora ho dovuto farla in doccia. Queste sono cose interessanti, queste sono cose fondamentali. O cose di cui parlano lì dove sta Parenzo, eccetera. Cioè, la cosa fondamentale che è che questo signore qui... Completamente no, impazzito. Questo signore qui sta dicendo una cosa fondamentale di cui discutiamo da giorni. Cioè, si risparmia pure la carta, l'acqua, a me non me ne frega nulla, l'acqua, la carta igienica, e pare pure che faccia bene alla donna dal punto di vista dei rapporti sessuali. Cioè bisogna assolutamente promuovere, credo che sia una cosa che anche il signor Gai come capo dei giovani industriali la possa fare, bisogna assolutamente, perché si costruiscono più docce, dunque si costruiscono più docce e dunque va bene anche all'industria, agli imprenditori eccetera. Bisogna non è nei temi bisogna trattati, assolutamente storie, promuovere la pipì sotto la doccia, cioè non si dovrebbe più fare la pipì normalmente. La Ronzulli è schifata. Ma perché lei non ha mai fatto la signora Ronzulli non ha mai fatto la pipì sotto la doccia? Non ha mai fatto la pipì sotto la doccia. Io penso l'abbia fatta, no? Che chiedi all'onorevole Ronzulli. Ma che cazzo, ma onorevole, tu sei rimasto indietro. Io pensavo di venire a parlare. Ma che parlare di che? Ma quando mai? Dai, su. Cioè, ma quale parlare di che? Ma conosci la Zanzara? Non è che parliamo di politica, no? Già mi hai fatto due coglioni così che non dicevi una parola, che eri come spaventata no? Dalla Zanzara. È così e forse come tutti. Ma ti lascio immaginare, io pensavo, avevo ascoltato Renzi, volevo dire la mia storia. Ma che ce ne frega noi di Renzi? Ha fatto questo incontro straordinario. Andrea, come è andata? Straordinario di un'ora e mezza con gli imprenditori. Andrea, com'è andata la pipina sotto la doccia? Bene, bene, perché è rilassante, tu ti puoi liberare, non hai problemi di mirare il buco né niente. Cioè il buco in che senso, scusa, in che senso ho problemi di utilizzare il buco? Cioè nel senso di prendere quello della faccia. Ah, cioè di prendere, no, cioè di prenderlo. No, però secondo la versione Ronzulli in realtà bisognerebbe fare la seduta, dunque non c'è il problema di mancare il buco in questo caso, secondo la versione ronzulliana. Allora, diciamo che su questa telefonata di Andrea D'Alecco il presidente ti saluta caldamente. Beh, e sta prendendo saluta, la porta. Saluta diciamo, il presidente, su Andrea D'Alecco. Saluta il presidente e digli che il problema della piscia diciamo sotto la doccia è fondamentale, non solo per l'economia italiana, ma anche per la nostra salute e forse anche per il risparmio energetico, che forse dovrebbe anche interessare, credo, no? La platea di cui sei ospite, tu sei, siete nostri ospiti, ha fatto pesare un po', siete nostri ospiti, beh sì, insomma sì, da un certo, beh, punto certo, siamo qui delle ospite, sì, ma tu sei ospite da una e non si sente un forza cazzo, basta, meglio il telefono di questo cazzo di collegamento dove non si sente nulla, lo posso dire adesso chiaramente o no? Non si sente un cazzo, si sente male, sotto una caverna, un collegamento assurdo, lo posso dire alle 20:29 dopo una due cazzo di ore passate a sentire un collegamento che fossimo sul, siamo su un altro pianeta. Sembra un collegamento venuto dal nulla. Eppure uno è a Santa Margherita nel cazzo di studio nostro. Divento pazzo. A dopo. Cruciani, sei immorale. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Luciani, la mia ragazza è gelosa perché parlo sempre della Zanzara e non l'ascolto mai. No, e lo sai cosa mi ha detto? Fatti. E lo sai cosa mi ha detto? Mi ha detto i pompini fateli fare da Cruciani adesso. Esatto. E adesso entro in sciopero. E adesso cosa faccio? Dimmelo te. Cruciani, oggi per purissimo caso, ma purissimo caso, mi sono trovato a passare sulla Salaria davanti a Sky. Bicicletta, telaio bianco, calzoncino nero tutto attillato. Non siamo al top, siamo al toppone, al toppone. Susanna sempre nei nostri cuori. Oggi, per parlare di cose molto molto serie, caro Parenzo, è arrivato qui un signore che si chiama Antonio Armano, un giornalista, uno scrittore, che ha scritto un libro che si chiama Sex Advisor, le vere recensioni dei clienti italiani di escort e trans. Ha preso, no, ma è un libro quasi comico per certi aspetti, edizioni che è Clichy, le vere recensioni dei clienti italiani di escort e trans. Ci sono dei pezzi, sono tutte recensioni prese, sai, dai siti quelli delle escort, cose che tu non frequenti in realtà, nemmeno io. Cioè sono Escort Advisor. No, non frequento l'escort io. No, no, Escort, no, Advisor, Gnocca faccio. Forum. Si vedono degli, sono degli spaccati di realtà strepitosi. Te ne leggo una che è fantastica. Io Forum Economia, il resto non conosco. Gnocca Forum, non so. Beh, Gnocca Forum è più importante di Forum. Ti assicuro che è più frequentato di Forum Economia. No, bisognerebbe, non è vero. Io bisognerebbe fare un confronto tra gli utenti di Gnocca Forum e gli ascoltatori di Forum Economia. No, secondo me Gnocca Forum ha più utenti. Sciocchezze. Vabbè, comunque, uno serve a niente. Senti, truffa Viking. Truffa vichinga, Roma, 21 dicembre 2015, dunque una cosa recente. È lei nella foto, ma con, è un tizio che è andato con una prostituta e dopo fa la recensione. È lei nella foto, ma con 50 kg in più e 30 anni in più di quello che dice. Posto molto sporco, con puzza di fumo di sigarette. È un vichingo di 100 kg, lasciate stare. Non si capisce se c'è andato o non c'è andato. Va bene ragazzi, dove andiamo? Amalia da Roma, vai. Eccomi. Amalia, cara Amalia, che mi devi dire, cara Amalia, dimmi. Niente, io invece volevo portare la mia testimonianza. Per sì, parliamo più forte, più decisa, più avvicini, più la avvicini la boccuccia. Alla... Sono vicinissima, bene, sono vicinissima, bene. Crociani. Ecco, allora, per quasi 5 anni io ho navigato, ho lavorato su navi da crociera americani, sì, e norvegesi. Sì. E il livello di promiscuità a bordo è molto alto, perché si cambia cabina, si cambia nave repentinamente. Tra i suggerimenti che ci davano era quello di fare la pipì nella doccia. Vedi Parenzo, vedi perché? Che tutto torna, no, vedi che perché. Vedi cosa, ma vedi cosa, cosa vuoi no, le dica sta qua? Parenzo, fai spiegare Parenzo, ad Amalia, una gentile signora. Parenzo, sono una che igienizza la qualsiasi. Però vi assicuro, l'ammoniaca ha un suo perché, è un componente chimico e igienizzava fondamentalmente, non è come marcare il territorio, per, cioè non è questo, però era igienizzare il posto in cui si faceva la doccia. Addirittura, cioè tu stai sostenendo un'altra cosa, te l'avevano detto, sì, lì. È ammoniaca per forza, cioè praticamente pulisce sostanzialmente, non è che pulisce, però sicuramente disinfetta e sposti il tuo nella doccia che stai qui siamo veramente al top. E allora lavatevi anche le mani a sto punto, lavatevi anche le mani. Non è, no, io non mi lavo le mani, però che porcheria non è una porcheria, ti sta raccontando una cosa, ma è una porcheria, è oggettivamente una porcheria, esaltare a fare lavarsi le mani è una porcheria, siete degli sporcaccioni, dai basta, non la facevo accovacciata, siete degli sporcaccioni, come suggerirebbe il medico. Però lo facevo, e se mi capita lo faccio, senza nessuna difficoltà. Ha ragione. Voglio dire, è ammoniaca. È un componente chimico. Francesco da Treviso, hai ragione Amalia. Francesco da Treviso, vai. La questione della pipì nel lavandino, no? Dimmi. Ci faccio molte più cose, non l'avete detto, io mi lavo i denti, mando i messaggini, mi scaccolo. È di più della pipì nel lavandino. Anche. Poi il lavandino si pulisce, sprechi poca acqua e nel frattempo la tua ragazza può far pipì nel gabinetto. Più di così, cosa vuoi dalla vita? Ma questa è gente normale, secondo te? Perché non è normale? Scusa, spiegami perché. Tu perché fare. C'è spiegami gente bene che telefona. Diventa, amore. Scusa? Francesco, spiegami perché la fai nel lavandino. Perché la fai nel lavandino? Perché uno non può telefonare perché? E dire dove la fa. Perché siete un branco di schifosi. Io a casa vostra non ci verrò mai. Siete schifosi. Dimmi, Francesco, perché la fai sul serio? In piedi o nel lavandino? Ma nel lavandino, è proprio della serie, cazzo, oggi ho fatto il mio, basta, mi apro la patta, lo appoggio sul bordo e non lo guardo. Penso ai cazzi miei, lui fa la sua cosa, io posso fare altre cose. Vabbè, ma dura 10 secondi però, amico mio, cioè in quei 15... No, io di norma faccio pipì quando mi fanno male un po' i reni, sento dolore proprio, che basta. E quanto dura, più. Scusa? Ci lavo i denti, fai conto te. No, ma ho capito, però, amico mio, è un altro discorso, dai, su, cioè, comunque, vabbè, tu dici, io mi sento meglio così, no? Mi sento riesco a riflettere durante quei minuti, o no? Lei nemmeno mi sgrida, le ho fatto provare cosa vuol dire far pipì tenendomi il membro e ha capito la difficoltà, quindi anche quella vabbè, aiuta. Quello adesso è un altro discorso. Va bene, ciao. Beppe, sono in astinenza di cavaliera Oriemma. Voglio sapere con chi si schiererà il ballottaggio, amico mio. Facci godere, amico mio, facci godere col cavaliera Oriemma. Italia morale, Italia morale, Italia morale! Cavaliere! Buonasera, bentornata, buonasera a tutto il popolo italiano. Beh, italiano, non esageriamo adesso, cavaliere. E Parenzo, vuoi omaggiare il cavaliere? Vuoi omaggiare il cavaliere? Ma non ci penso per niente. Ma non ci penso per niente, un altro anormale lì. Ma ancora, che anormale? Cavaliere, di qualcosa. Ma dice che sei anormale, cavaliere. Non sono normale. No, ha detto sono che. Fuori di testa. Lo dice anche lui. Cavaliere, perché dici che sei fuori di testa? No? Meno male. Mi hanno rubato tutto. I partiti, mi hanno rubato tutto. Cari signori, hanno rubato tutto. Come ti hanno rubato? Che vuol dire hanno rubato? Mi hanno rubato a casa, mi hanno rubato i voti, mi hanno rubato il simbolo, mi hanno rubato tutto. Ma che ti hanno rubato il simbolo di Italia Morale? Tutti, Italia Morale. Adesso abbiamo ricostruito un'altra volta. Abbiamo cambiato indirizzo e abbiamo ricostruito un'altra volta. Ma chi ti ha rubato? Non ho capito. Chi ti ha rubato? Con il Partito Democratico, i 5 Stelle, tutti hanno rubato, tutti. Ma hanno tutti. Rubato cosa? Cosa hanno rubato? Hanno rubato i voti, imbrogli elettorali, a sinistra e a destra, a centro, tutte le parti hanno rubato. Ma non c'eri tu, non ti sei presentato alla fine. No, ma io sono presentato, Italia Morale, sapete perché mi hanno minacciato. Ma che ti hanno minacciato, cavaliere? Hanno minacciato, le prove. Ma chi ti ha minacciato, cavaliere? Ma io non so, io agente, dice non ti presentare. Ho sbagliato, non mi presentavo, io avevo 100.000 voti a Roma, 200.000 voti a Roma. Chi è sto ma qua, scusami, dai. Cavaliere, come I fai? Mi hanno minacciato aeroporti di Roma, i tassinari mi hanno minacciato alle porte di Roma. Ma scusa, ma tu non eri a favore dei tassinari, scusa. A favore dei tassinari, e mi hanno minacciato quando se ne fa la conta. ci hanno cacciato a pedate fuori. Ma scusa, fuori. Cavalier, siamo seri. Alla fine tu per il ballottaggio chi è che scegli? La Raggi oppure Giacchetti? Scheda bianca. Ma tu non sei uno da scheda bianca. Italia morale. Italia morale. Che va a cos'è Italia morale? Non esiste. Come non esiste? Non esiste, dice. Parenzo dice che non esiste. Ma come che sta scherzando? La moralità, dove sta questa moralità? Sì, ho capito, però. Ma cos'è, di cosa parlate? Di una roba che non esiste. Ma come non esiste? È morale, ma dove che... sta? È morale. No, lui dice che non esiste il partito Italia Renzi, Morale. Sì, tra l'altro, no, Renzo. Abbiamo domande di scritto, domande con email. Abbiamo 5.000 iscritti. 5.000 iscritti. Ma dove starebbero 5.000 iscritti? A Roma. E io sono il direttore del Sole 24 Ore. Ma dai, 5.000. Allora scrivi al Sole 24 Ore, dove chi è? Do tutta la lista dei nostri votanti. Ma quale 5.000? Dove? Ho detto che se lei è il capo di un partito. Abbiamo 5.000 persone iscritte adesso e iniziamo. Abbiamo iniziato da zero in questi giorni, da zero abbiamo iniziato. Ma perché è iniziato da zero? Non c'era già Italia Morale? Sì, ma adesso iniziamo da zero, dopo tutti questi voti imbrogli elettorali. Ma quali imbrogli? Di cosa? Di chi? Di cosa, cavaliere? Ma tutti, pure a me mi hanno rubato 3.000 voti, mi hanno rubato a me. Ma dove sei? Se non ti presentavi, come hanno fatto a rubarti i voti, cavaliere? Perché i miei candidati si hanno presentati con Forza Italia. Ma vabbè, sono presentati con Forza Italia. Allora, dunque, chi voti adesso al ballottaggio? Scheda bianca? Scheda bianca. Certo, a te gli omosessuali non ti votavano, questo è sicuro. No, i proci mi votano, compresi i mignotti votano a me. I proci li volevi portare a Pomezia. Le froci a Pomezia. Che vuoi fare? Roma libera da froci e mignotte? Liberano Roma. Dei proci di puttana. Ma non si può fare. Amico, non si può fare. Ma c'è una legge, ma andate fuori Roma, a Pomezia. Comando il comune 5 Stelle a Pomezia, tutti a Pomezia. Senti una cosa. Una cosa, cavaliere, vogliamo chiedere a Parenzo la sua augusta opinione sulle Olimpiadi, sul tema del momento a Roma. Io sono contro, ho fatto pure il manifesto. Contro. Quale manifesto ha fatto? Di che parla? Di che parliamo? Ho mandato una mail. Ma scusami, non è che basta per dire ho fatto una un mail. Partito, ho mandato una mail. Ma che roba è? Ho fatto un partito, contesto. Che ha fatto? Mandata una mail. Senti, contesto a tutti noi. Contesto a tutti, ma che contesto? Il presidente Alconi, il presidente Montezemolo, contesto a tutti. Non si fanno più queste cose. Scusami, cavaliere, ma perché sei contro le Olimpiadi? Non ho capito. Contro le Olimpiadi perché c'è gli appalti, arrivano le stelle, partono da 6 miliardi e poi arrivano a 50 miliardi. Questo pure è vero. Su questo non è possibile. Noi controlliamo tutto, Ma chi controlla? Chi controlla? Tutta il CONA, la Federazione Calcio, controlliamo Montezemolo, tutto. Ma chi controlla? Noi e chi? Italia Morale? Non controlla nessuno. Oggi cominciamo a controllare, voi tassinari controllammo. Pure tassinari, adesso che c'è? Voi tassinari controllammo. Quelli che hanno fatto i reporti di Roma, i tassinari. Sei bene a vergognare. Io ho 5 mesi a fare fuori di tassinari. E diventi 5-5-1 di Venzia. Ma chi? La cooperativa. Parenzo, ma di che sta parlando? 5-5-1. Ma non me ne frega niente la cooperativa. Parliamo di prossimo, chiamati Mignotta. Questi sono i suoi temi di battaglia. Ma scusa, tu non ti sei mai avvicinato a te un procio, un gay, un omosessuale? Mai piace le donne, a me piace le donne. Sì, ma ho capito, ma se te si avvicina uno, che fai? Lontano, pure lontano. Ma tu vai sulla Salaria ogni tanto? Sulla Salaria ci sono. No, Salaria non ce va, che basta. No, il puttano ne voglio vedere, il mignotto ne voglio vedere. Ma come? Perché non ne vuoi vedere? Che male t'hanno fatto? Ma sono mignotto, scusa, dammi qualche malattia. Io voglio essere tranquillo, sirene, voglio essere. Ho capito, ma tu ormai non scopi più, immagino, no? Ma che cazzo dici? Scusa, che stai scherzando? Quanti anni hai, cavaliere? Ma non sa quanti anni ho, io ne faccio 2 al giorno, ma che stai scherzando? Ma con chi le fai 2 al giorno? Dai. Ma con tutti. trentenne, 35enne, quarantenne. Ma che 30, 35 anni, 40? Ma quelli appena te vedono... La faccio due a giorno, amico mio, due. Ma due che, giorno, ma te non te serizza più, cavaliere, dai. Lo dimostro. No, adesso, per carità, no, non vorrei sconvolgere... Ma come fa alla tua età? Tu sei oltre 70 anni, cavaliere. Ma quale 70? Beh, 70 anni che vuole uno che va più a letto che donne. Ma sì, che ma due al giorno, no, due al giorno non la puoi fare. Due al giorno la faccio, due al giorno, contate, faccio... Lo dimostro io. Due al giorno ne fai, vabbè, amico mio, è un miracolo, vabbè. Faccio i proci e i mignotti tutti a pometti, dice l'aria è bella, c'è il terreno, già tanto terreno lì a pometti. Ciao cavaliere, ciao. Ragazzi, ci sentiamo lunedì, va. Oggi abbiamo dato, dai, ciao. Ma ve ne dovete annare? Ma perché? Ma se ve dite annate, ve ne annate. Ma perché se ne devo annare? E bisogna ve ne annate! Non sono... Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, con il ritorno a casa. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.